Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ero fermo al semaforo e un ragazzino si è avvicinato alla macchina con la mano distesa. Gli ho chiesto perché non fosse a scuola e lui ha detto: tu mi porti a scuola. Senza aspettare risposta, ha aperto la portiera e mi si è seduto accanto. Mi chiamo Marcella, ho 56 anni, insegno da sempre e vivo con Sergio. Sono curiosa e mi piace cimentarmi con nuove esperienze. Scrivo, faccio macramè e ho moltissimi amici. Insieme a tutto quello che fa, che racconta questa radio, insieme all'informazione, insieme all'approfondimento, insieme all'attualità, insieme allo sport, quello che facciamo noi, quello che facciamo tutti i giorni alle 16, cioè raccontare delle storie, l'ho già detto più di una volta e lo penso sempre di più, ha a che fare con l'essere un atto politico, semplicemente perché ti permette di vedere il mondo da un punto di vista diverso, che non è il tuo, ed è quello di chi racconta la sua vita e la sua storia. Buongiorno a tutti, sono le 16 e 9 in punto, quasi 10, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è sempre Voi Siete Qui. Ogni giorno una storia diversa raccontata da una persona diversa che ci racconta in una pagina, in due pagine, dove si trova nel momento in cui scrive quella storia, dov'è, cosa fa e chi è. La storia di oggi, la storia di Marcella, è una storia che dovrebbe veramente essere forse raccontata nelle scuole. Forse dovremmo andare noi, dovremmo organizzare dei tour nelle scuole in cui raccontiamo alcune delle storie che ci arrivano e che facciamo in radio, ma anche in mezzo alla strada. In realtà dovremmo fare dei tour in mezzo alla strada in cui raccontiamo alcune storie che ci arrivano, o a cena a casa vostra, ci invitate a cena, facciamo un tour a cena a casa vostra e vi raccontiamo, siamo io, Paolino, Margherita, Tiziano e Mauro, e vi raccontiamo alcune delle storie che ci arrivano qua. Insomma, non so se avete capito, ascoltate bene questa storia, perché la storia che stiamo per raccontare oggi dà un altro punto di vista sulla vita. Cioè che le cose possono essere anche diverse da come le immaginiamo, no? Da come le viviamo tutti i giorni. Non che siano meglio o peggio, semplicemente possono essere altre. 349-238-6666. Oggi raccontiamo una storia piuttosto particolare. E oggi mi piacerebbe avere messaggi, piccole storie, attraverso il 349-238-6666, ma anche tramite il profilo Facebook, di quelli che vengono chiamati 2G, cioè seconda generazione, le persone che sono nati in Italia da genitori che sono immigrati in Italia, cioè che sono arrivati da altri posti del pianeta e quindi sono nati qui, sono italiani, parlano italiano e hanno di fatto la loro vita tutta qui in Italia, però rappresentano un punto di rottura rispetto alla tradizione familiare. Da quanto siete nati, se siete di seconda generazione, quanti anni avete, da dove arrivano i vostri genitori, da quanto erano qui loro, e come va? Come va la vostra vita? 349-238-6666. O anche Voi Siete Qui Radio 24, Twitter invece Voi Siete Qui R24, il mio invece è semplicemente Matteo Caccia. Prima di partire con la storia di Marcella e quindi prima di prepararvi, vi ricordo che stiamo preparando l'estate di Voi Siete Qui e, a differenza di come facciamo di solito, vi chiediamo dei temi su cui scrivere. Sono quattro temi molto semplici. Sono una storia legata ai mondiali di calcio, banalmente, perché ci sono i mondiali in Brasile, una storia legata a un racconto di guerra, magari che vi è stato fatto da un nonno, da un parente, o ahimè se l'avete vissuto anche voi, spero di no, ma può essere, semplicemente perché sono 100 anni dall'inizio del primo conflitto mondiale. Una storia di avventura e una storia di viaggio. Mondiali, guerra, avventura e viaggio. Questi sono i temi che affronteremo quest'estate, quindi vi chiedo di mandarci la solita storia, una pagina, massimo due, a Voi Siete Qui, @radio24.it. Per una volta vi chiediamo proprio il tema. Tema: mondiali, guerra, avventura, viaggi, svolgimento. Voi Siete Qui, @radio24.it. Ok, ora immaginatevi di essere a un semaforo, magari siete a un semaforo in questo momento in automobile e c'è una persona che chiede l'elemosina o che cerca di vendere qualcosa. Ecco, sentite Marcella che cosa ha fatto quel giorno. Pioveva, di quella pioggia novembrina che a Milano riesce a bagnarti anche sotto l'ombrello. Io invece ero all'asciutto, in macchina, per raggiungere la scuola dove insegnavo, nella periferia sud. Allora insegnavo alle medie, avevo 40 anni, lo stesso compagno di vita che ho ancora, e la stessa predisposizione a rivoluzionare l'esistenza, inventandomi percorsi nuovi. Ero fermo al semaforo, e un ragazzino, bagnato fino al collo, si avvicina alla macchina con la mano distesa per chiedere l'elemosina. Io ero rimasta colpita dalla lucentezza degli occhi e dal sorriso che sotto una giacca a vento completamente fradicia sembrava del tutto ingiustificato. Dimostrava sì e no una decina d'anni. Io credo di avergli sorriso e non so cosa può aver letto lui nel mio sguardo. Istintivamente ho abbassato il finestrino e gli ho chiesto che cosa facesse lì e perché non fosse a scuola. Devo essere stata convincente, perché lui ha risposto in un italiano molto approssimativo: «Sì, io adesso a scuola, tu mi porti a scuola». E senza aspettare risposta, ha aperto la portiera e mi si è seduto accanto. È stato difficile parlargli perché lui non capiva l'italiano, per cui io continuavo a dire «io vado a scuola» e vedevo se lui aveva qualche reazione. Mi guardava e sorrideva, come se fosse un'avventura nuova e un gioco. Il semaforo è scattato e mi sono ritrovata a guidare con a fianco un ragazzetto sconosciuto, bagnato e sorridente. Effettivamente io stavo andando a scuola, mancavano 2-3 chilometri. Così ho proseguito per la mia meta, come un po' ubriaca, tanto ero frastornata, ma sicura che di lì a poco avrei capito qualcosa di più e risolto la situazione. Il ragazzino si chiamava Mohamed, aveva 12 anni, era arrivato da 2 mesi dal Marocco con uno zio e aveva solo un desiderio: andare a scuola e non stare più in mezzo alla strada. Siamo scesi dalla macchina uno accanto all'altra e la commessa all'ingresso si è messa le mani nei capelli. «Ma lei ha rapito un minore», mi ha detto, «dobbiamo avvisare il preside». Io non chiedevo altro, anche perché dovevo entrare in classe e non sapevo come togliermi da quel pasticcio. Il preside, bravissimo e molto predisposto all'accoglienza, l'ha sistemato in una classe e ha rintracciato una persona che sapeva l'arabo, che abitava lì vicino e che ci ha aiutato a capire che quel ragazzino stava fuggendo da una situazione di sfruttamento e di abbandono e che aveva scelto occasionalmente me per una nuova vita. Lui era venuto con uno zio e poi non abbiamo indagato bene, e né lui ha raccontato mai nei dettagli che cosa questo zio gli facesse fare o come fosse la sua vita con questo zio. Sapevamo che lo mandava in marciapiedi a chiedere l'elemosina. Da quella mattina ho modificato i miei programmi, prima solo di quel giorno, poi della settimana e poi della mia vita. Quel pomeriggio l'ho passato in questura, la settimana è trascorsa avanti e indietro dall'istituto dove era stato collocato. I mesi successivi sono stati un via vai fra assistenti sociali, operatori del settore e tribunale dei minori per ufficializzare l'affido che avevo chiesto per Mohamed. Il mio compagno mi ha seguito in questa avventura, anche perché io ormai ero totalmente assorbita da questa vicenda e sapeva che non mi avrebbe potuto trattenere. Sono passati 14 anni. Mohamed adesso è un uomo e vive per i fatti suoi. Io nel frattempo sono diventata madre adottiva di Aida, una ragazza proveniente dallo stesso suo paese, che si sta laureando e sta ancora con noi. E ancora adesso, quando passo da quell'incrocio, mi viene sempre in mente quel giorno e sento un brivido di gratitudine per la sorte che mi ha riservato grandi regali partendo da un semaforo rosso. Moses è un bambino cresciuto per strada nei primi anni 80 a Nairobi, in Kenya. È diventato un uomo masticando canna da zuccheri agli angoli delle strade e dormendo in una baracca nello slum di Korogocho. Il primo lavoro che ha trovato a 14 anni è stato quello di insegnare lo Swahili in un orfanotrofio. Con i soldi che ha guadagnato si è comprato un matatu, uno di quei pulmini colorati a metà tra un taxi e un autobus che girano tutta l'Africa orientale, e ha fatto l'autista. Ma più passavano i giorni, guidando per le vie di Nairobi, e meno sopportava di vedere tutti quei bambini abbandonati a se stessi ai margini delle strade. Dopo 10 anni ha regalato il suo matatu alla madre, ha comprato dei semi e ha detto a 4 bambini che bivaccavano tra i rifiuti: «Venite con me, vi faccio vedere cosa voglio fare con voi». Ha scelto un posto aperto, al confine tra lo slum e il quartiere residenziale, e gli ha chiesto di piantare quei semi. Per le persone del quartiere è stata una visione insolita. Si sono avvicinati e hanno chiesto chi fossero quei bambini e cosa stessero facendo. «Voglio che questi bambini abbiano un posto dove dormire e dove andare a scuola, e quel posto nascerà qui», ha risposto Moses. Quella sera stessa avevano raccolto cibo, penne per scrivere e vestiti per tutti. Poi ha vestito bene i 4 e li ha mandati a raccontare cosa avevano fatto nello slum. Un anno dopo, in quel punto esatto, ci vivevano e imparavano 20 bambini. Ha costruito delle baracche, ha fatto una scuola, una mensa e un dormitorio. Da allora, in 8 anni, sono passati centinaia di bambini. A differenza delle altre organizzazioni per l'infanzia, che hanno quasi tutte una forte identità cattolica o islamica, Moses accoglie tutti quelli che vogliono dare una mano, indiscriminatamente. Lo accoglie tutti perché è convinto che il confronto con altre culture faccia crescere i ragazzi e migliori la loro personalità. Negli anni gente di tutto il mondo si è incontrata a Nairobi. C'è l'ingegnere tedesco in pensione che progetta il depuratore per l'acqua, i ragazzi indiani che lo costruiscono, gli olandesi che insegnano yoga, gli americani che insegnano il business, i cinesi il mandarino, gli italiani l'italiano. C'è chi si occupa della cucina e chi continua a girare per le strade alla ricerca di altri bambini che vogliono vivere là. A quelli che non restano e che non resistono e vogliono quindi tornare a essere randagi, lui chiede solo di andarsene lavati e ben vestiti. Poi li riaccompagna in macchina nello slum e li fa scendere in mezzo a quella miseria. La sua è una strategia molto chiara. Loro scendono da una bella macchina e si confrontano con i vecchi amici. Vedono da soli la differenza tra loro, nutriti, puliti e che hanno sperimentato un progetto di vita, e chi invece è rimasto a razzolare nella discarica. Dopo al massimo 3 giorni, tornano. E spesso non tornano da soli. Moses e sua moglie hanno 4 figli, ma tutti i ragazzi che sono passati dalla comunità, e ormai sono tantissimi, lo chiamano papà. Anche quelli che gli sono praticamente coetanei. Vive insieme alla sua famiglia dentro la comunità e continua a fare l'autista. Tutti i giorni va in aeroporto con la sua macchina a prendere i turisti diretti ai grandi parchi naturali o sulle spiagge dell'Oceano Indiano. A chi gli chiede perché continui a fare l'autista, lui dice: guadagno qualcosa, insegno un mestiere ai ragazzi e soprattutto perché i turisti, quando arrivano, sono avidi di storie e io sono il primo a parlare con loro. Si siedono in macchina e io gli racconto che ogni volta può essere la volta buona. Sola Marcella nella foto che ci ha mandato, ma è con un'altra donna, con un'altra signora che immagino essere la mamma di Mohammed. Sono quindi probabilmente in Marocco. La signora sinistra ha un velo in testa, non sul viso, ha un nome diverso che non ricordo mai e che chiederemo più tardi a lei. Ha come un foulard in testa, e invece Marcella no, ha i suoi capelli biondi, gli occhiali e guardano tutte e due sorridenti verso l'obiettivo. Pronto Marcella? Teo. Ciao, come stai? Bene, bene. Dove ti trovi in questo momento? Sono a casa, oggi non ho scuola, quindi sono a casa. Non hai scuola perché... I miei alunni a scuola stanno sentendo questa storia. Beh, ma non la conoscono? Sì, gliel'ho raccontata 1000 volte, ma c'è l'altra maestra, la Laura, che forse gliela fa sentire in diretta. Ah, ok. Allora, se c'è la Laura e i bambini, salutiamo la Laura. I bambini, i ragazzi, scusami, perché quanti anni hanno? Fanno... Adesso insegna alle elementari, fanno la quarta. Ok. Invece adesso perché alle medie. Dice adesso ok, perché prima insegnava alle medie. Mi ricordi, me lo dici perché non lo scrivi nel racconto. Qual è quell'incrocio esatto in cui hai trovato Mohammed? Allora, venendo sui Navigli, sì, per andare verso Rozzano, diviso San Giacomo, è all'inizio di Rozzano, c'era una rotonda, adesso è un po' cambiata la viabilità. Comunque prima di Rozzano sui Navigli. Ok, senti Marcella, invece ci racconti esattamente, insomma quel giorno lì lo racconti benissimo, che tu arrivi a scuola e questa ti dice sì. lei ha rubato un minore, insomma è un reato, e poi insomma il preside dà una mano, ma poi di lì in avanti tu di fatto fai le pratiche per adottare Mohammed. Per fare un affido. Un affido, ok, giusto. È successo che Mohammed ha avuto paura una volta che è stato lasciato dal, perché io non potevo portarmelo a casa così. E quindi è rimasto in un istituto, insomma, okay. E non era possibile per me avere contatti, perché per un periodo, quando vengono messi in istituto, vengono tutelati da qualsiasi tipo di contatto. Okay. Lui si è sentito un po' abbandonato, ha avuto paura ed è fuggito da lì. È fuggito e non ho più saputo niente. E dopo 2 anni si è ripresentato perché si ricordava dove abitavo. Dato che prima di portarlo in questura lo avevo portato a casa per dargli un po' da mangiare, quindi si è ripresentato molto più alto e così, dicendo: io adesso non scappo più, tu mi aiuti. Allora lì aveva ricominciato, insomma, ha preso la licenza media da privatista, ha voluto fare un affido a metà, un po' con me, un po' rimasto in istituto perché mi piaceva giocare a calcio e a casa mia non era possibile, e quindi è rimasto un figlio a metà, perché però intero effettivamente, ma a metà come condivisione degli spazi. Senti... Poi nel frattempo ho conosciuto Aida, che era la sorella di del suo compagno di camera, che era in una situazione anche lei di abbandono, e su di lei invece l'affido è stato totale. Quindi lei vive con voi adesso? Lei vive con noi, sì, anche se in uscita, perché è laureata. Quindi. E cosa è laureata? È laureata prima in mediazione culturale con l'arabo, e poi non riusciva a trovare, ha fatto infermieristica, e vorrebbe, le piacerebbe poter comunque usare le sue insomma, prima laurea comunque per abbinare le due cose. Certo, in questo mi verrebbe da chiederti, tuo marito come reagisce alla tua vita e alle tue scelte di vita? Però mi sembra di capire che sei una persona tranquilla, il marito, che accetta. Sì, diciamo che molto spesso è un po' frastornato, però poi partecipa anche lui a queste cose, con altri tempi magari ci arriva un attimo dopo, ma però c'è. Condivide. Ma, Marcella, vorrei chiederti che cosa fa adesso Mohamed, però abbiamo fatto una cosa migliore, cioè che abbiamo chiamato lui, così lo chiedo direttamente a lui. Pronto Mohamed? Sì, pronto, ti sento. Ciao, come stai? Ciao, sì, bene. Dove sei in questo momento? Esattamente sul tetto della cabina di un ascensore. Ah, quindi... ok, perché stai lavorando? Sì, esatto. Ok, che lavoro... aspettavo, ma va bene. Che lavoro fai, Mohamed? L'ascensorista. L'ascensorista, quindi sì, metti a posto gli ascensori? Insomma, ogni tanto. Ci provi? Ci provo. Senti, tu ti... Mohamed, ti ricordi tutto di quel giorno che ci ha raccontato Marcella? Ah sì, mi ricordo come fosse ieri, guardi. Cioè, quindi scusami, questo momento, cioè diciamo il momento clou è quando lei ti dice cosa fai lì e tu dici giusto, cosa faccio qua? Portami a scuola. Sì, io mi ricordo che parlavo proprio poco in italiano, quindi io poi parlavo francese, no? Sì, certo. Sono riuscito a comunicarla con francese e insomma... ho capito comunque che lei mi diceva di andare, che a scuola. Certo, che voleva sì, in qualche modo fare quattro chiacchiere. Poi quel giorno lì pioveva, di rotto ero tutto bagnato. E quindi ho detto perché starsene qua, saliamo in macchina. Sì, esatto. Mohamed, ti ringrazio, ti lascio continuare a lavorare, è stato un piacere conoscerti, a presto. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Buona giornata. Saluto a Marcella. Guarda, la riprendo e così la saluto. Ciao, bene, grazie. Ringrazio. Ciao Mohamed, ciao. Pronto Marcella? Sono qua. Ma veramente Raffaella Carrà a noi ci fa una carezza. Marcella, l'ultima cosa, noi stiamo ormai addirittura d'arrivo con la data del live, del nostro evento finale di Voi Siete Qui, e se sei a Milano e se riesci a portare Mohamed e Aida, a noi fa molto piacere. Ma volentieri, allora, appena sappiamo la data te la comunichiamo. Marcella, grazie ancora. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie a Marcella, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sta per concludere, per dare la linea a Oscar Giannino. Grazie quindi a Margherita Ina, a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Mauro Pescio. Basta, e abbiamo finito. Grazie soprattutto a tutti i protagonisti di questa storia. Grazie in particolar modo a Marcella, perché la storia di oggi era la sua, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Monica Botta, telefono da Novara, la storia di domani è la mia e parla del vecchio e il mare in un giardino. Questa è la mia storia e io sono qui.